sul colle, il gioco di pietre, lanciate alla roggia, il pane rotondo, l'ulivo che viene, ma l'importante è sapere a questo punto il prezzo quale. Si può amare la casa sul monte che ride alla valle tra lecci e castagni, l'amore antico di un uomo costante, ma l'importante è sapere a questo punto il prezzo quale. Può amare la pace leggera del ceppo che canta nel vecchio camino, la noce che crocchia il sorso del vino, ma l'importante questo punto il prezzo quale. E posso amare il dubbio di Dio che mi prende in cuore guardando la sera, paura di stelle, paura di terra, ma l'importante è sapere a questo punto il prezzo quale. E posso amare la voglia borghese di me, uomo stanco, che lascio la guerra per fare all'amore col grillo parlante, ma l'importante è sapere a questo punto il prezzo quale. Posso amare la rabbia perdente, la stretta d'angosce metropolitana, il grido più solo, ritorno al paese. A questo punto non serve sapere. Stanco il prezzo è Guevara, e anche per Edo, Vietnam, Marighella, Ceccanti e Avola, e Battipaglia, brucia ragazzo, brucia, la lotta continua. Ragazzo, brucia, continuerà, brucia, ragazzo, brucia, la lotta continua ancora, brucia, compagno, brucia.